ora intendo cos'è. Quel babbuino, quel stregone di vecchio imperversato, mi fa questa solenne baronata. Ma lo a vedere anch'io, vo sapere chi tocca a venirmi a levare il pan di bocca. Sandra è mia, senza lei già vivere non potrei. Povero Nanni, son già più di 3 anni ch'io i vengo d'intorno, ch'io i reco ogni giorno i frutti o il mazzolino, e che ogni notte sotto la finestra i vengo a strimpellare il chitarrino. Altro bell'imbusto, intanto dal vedere al non vedere, verrà a rompermi l'uova nel paniere. Voglio andare al suo padre, vo saper chi è costui, vo che mi dica dal A fino alla Z. E quando poi rivelato m'avrà tutto il misterio, un di noi due e a ira del cimiterio.